GR24, il sole 24 ore. Ore decisive per il governo napoletano, gli annunci diventino decisioni, Bossi, si rischia la crisi. L'allarme di Confcommercio, recessione vicina, basta rinvii, i voti di fiducia non danno governabilità. Marco Simoncelli è tornato a casa, commozione a Fiumicino. Libia, Gheddafi sepolto in un luogo segreto nel deserto. Una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. La crisi di governo sembra più vicina, considerando anche le parole pronunciate questa mattina da Umberto Bossi. Il dibattito in corso con la Lega, che resta sulle sue posizioni sulle pensioni, dunque potrebbe essere decisivo per l'esecutivo. Poco fa, intanto, sono arrivate anche le nuove parole del Capo dello Stato. Partiamo da qui in diretta con il nostro Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, nuovo appello del Capo dello Stato che arriva in uno dei momenti più delicati per l'esecutivo e per il Paese. Siamo oggi più che mai nella stessa barca, in un mare in tempesta, scrive Napolitano. Ciascun Paese, aggiunge il Presidente della Repubblica, deve fare la sua parte. Quindi l'invito alla chiarezza del Quirinale al Premier. Per l'Italia è il momento di definire, in materia di sviluppo e di riforme strutturali, le nuove decisioni di grande importanza annunciate ieri nella dichiarazione ufficiale del Presidente del Consiglio. Nella nota del Colle il Capo dello Stato sottolinea la necessità della credibilità dell'operato del nostro governo, dobbiamo compiere tutte le scelte necessarie per ridurre il rischio a cui sono esposti nei mercati finanziari i titoli del nostro debito pubblico, spiega Napolitano, rendere più credibile il nostro impegno ad abbattere tale debito e a rilanciare la crescita economica. Infine il capitolo relativo alle polemiche innescate dall'ironia franco-tedesca su Berlusconi, nessuno minaccia l'indipendenza del nostro paese o è in grado di avanzare pretese da commissario, scrive il Presidente della Repubblica, ma da 60 anni abbiamo scelto, traendone grandissimi i benefici, di accettare limitazioni alla nostra sovranità in condizioni di parità con gli altri stati. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, e a far capire che è una giornata davvero decisiva continuano ad arrivare le reazioni, sia quelle da Bruxelles che quelle interne e che riguardano appunto la Lega, la posizione della Lega sulle pensioni. Bossi per la prima volta ha detto che potrebbe esserci un rischio concreto di crisi. Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno, l'intesa è molto difficile, sarò a guardare le proposte che mi faranno tra poco, non incontrerò Berlusconi, così Umberto Bossi ribadisce il no all'abolizione delle pensioni di anzianità, la gente ci ammazza, spiega il leader della Lega, non è possibile per tutti lasciare il lavoro a 67 anni, i 40 anni non vanno toccati, ma quello dell'Europa sembra più un attacco contro Berlusconi, anche se Bossi avverte, stavolta si rischia la crisi, sentiamo allora il leader della Lega. Stavolta diciamo... Una situazione difficile, molto pericolosa, un momento drammatico, definirei così. Intanto l'Unione Europea attende ancora la lettera in cui il Premier Silvio Berlusconi annuncia le misure per la crescita, ma il Presidente della Commissione José Barroso spiega siamo sicuri che arriverà entro domani. Nel frattempo, in altre rivelazioni del libro di Bruno Vespa, Berlusconi si dice pronto a lasciare la Premiership, solo se però ci fossero le condizioni. E sulla situazione italiana interviene anche l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, il problema sono le prospettive dell'economia reale da affrontare con una politica economica seria e un nuovo senso di responsabilità nei confronti degli altri paesi europei. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta, ma dal punto di vista tecnico è possibile una riforma delle pensioni con tutti in pensione a 67 anni? Un'ipotesi non credibile secondo Elsa Fornero, docente di economia all'Università di Torino ed esperta di previdenza. Sentiamola al microfono di Katia Caramelli. Bisogna recuperare un elemento fondamentale di una riforma importante che noi abbiamo realizzato nel 1995 e mai attuato. Dobbiamo recuperarlo e dire che per tutto il futuro di lavoro, piccolo o lungo che sia, di tutti i lavoratori, vale il metodo contributivo, che è un semplice metodo che dice che la pensione dipende dai contributi versati e dall'età alla quale si va in pensione. Lo Stato ha il diritto, dovere di stabilire un'età minima, che per esempio nella mia proposta è 63 anni, uguali per tutti, uomini, uomini, donne, pubblico impiego, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, ma che è da intendersi come un'età minima. Dopodiché vale un meccanismo che fa sì che chi continua a lavorare risulti premiato, premiato non soltanto per i contributi addizionali che versa, ma anche per il fatto che se continua a lavorare nel periodo di lavoro non percepisce la pensione, quindi la perdita della pensione gli viene in qualche modo riconosciuta, nel senso che quando ci andrà quel di più sarà spalmato sul minore periodo di pensionamento. Quanto si risparmierebbe? Se noi consideriamo un orizzonte di 5 anni di questa riforma, noi possiamo portare a casa nel complesso qualche decina di miliardi di euro, che vuol dire un 30-40 miliardi di euro. La Lega ieri è stata drastica, no? Una riforma strutturale delle pensioni. Qual è la differenza rispetto allo scalone Maroni? C'è una differenza, vorrei dire, all'interno della Lega. La Lega sta mostrando di essere oggi un fattore di conservazione e non un fattore di innovazione. All'interno della Lega ci sono però visioni diversificate. Sicuramente il ministro Maroni, che è stato responsabile del lavoro e del welfare e quindi ha una conoscenza del sistema pensionistico molto più approfondita, ha anche una visione di quello che succede all'estero, di quello che è sostenibile. Mi sembra invece che Bossi e i suoi uomini agitino semplicemente una bandiera. L'allarme sulla crisi, intanto lo avete sentito dai nostri titoli, arriva oggi forte da Confcommercio a Milano. Il presidente Sangalli ha lanciato un duro monito alla politica. Ce ne parla accanto a me Anna Marino. Sì, siamo ai tempi supplementari, denuncia Confcommercio agli stati generali dell'associazione. Bisogna reagire subito, senza la crescita la recessione è vicina e il futuro dell'Italia è a rischio. Pesano i numeri della crisi, alcuni dati alla mano. Nei primi 9 mesi di quest'anno 23.000 imprese in meno, 180 negozi chiusi al giorno. Per le famiglie giù il reddito pro capite del 3,6% negli ultimi 10 anni, dimezzati i risparmi rispetto a 10 anni fa. Perciò, con le parole del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, arriva la richiesta senza appello alla politica. Una governabilità responsabile ed ambiziosa, perché lo richiede la straordinaria difficoltà del momento. Una governabilità che non è automaticamente garantita dai voti di fiducia, ma che deve mettere in campo delle risorse, delle politiche che vadano a rafforzare in maniera determinante la crescita. Ancora numeri per sottolineare che le stime di crescita per l'Italia sono infatti dello 0,3% nel 2012 e a bocce ferme, cioè senza riforme, secondo Sangalli, per conseguire l'obiettivo dell'azzeramento del deficit saranno necessari tra il 2012 e il 2014 circa 100 miliardi di tasse e imposte in più e circa 40 miliardi di minori spese e tagli. Sangalli ribadisce perciò la sua ricetta in 6 punti. Controllo e riduzione della spesa pubblica, riforma del sistema previdenziale come chiede l'Europa e del fisco, cessioni di patrimonio pubblico, liberalizzazione, semplificazioni, investimenti in infrastrutture per l'efficienza energetica. E il presidente di Confcommercio bacchetta infine il governo, ribadendo che è stato un errore procedere all'aumento dell'IVA e che l'Italia non deve soggiacere a commissariamenti e protettorati europei o franco-tedeschi che siano. Ed è tutto. Grazie ad Anna Marino. Adesso apriamo una parentesi, poi parliamo di evasione fiscale, una parentesi dolorosa con l'addio a Marco Simoncelli. Marco Simoncelli, detto il Sich, sta tornando a casa a Coriano in Romagna. È il suo ultimo viaggio, il feretro avvolto nella bandiera tricolore e tutti lo aspettano. Mamma Rossella, gli amici, i tifosi. E da domani lo saluteranno al Teatro Comunale, dove è stata allestita la Camera Ardente, prima del funerale che sarà giovedì. All'aeroporto di Fiumicino, stamattina, ha ricevuto un lungo applauso. Applausi e commozione. Il padre, Paolo, fatica a contenere il dolore, ma non si tira indietro, come faceva Marco. Marco sarebbe felice perché con voi era sempre stato disponibile. Io spero di fare altrettanto. Un bacio a tutti, grazie. Eh sì, non era un modo di dire. Il Sic era davvero un ragazzo speciale, sempre allegro, come tutti quei romagnoli matti che amano il motore. E come quei ragazzini che vivono sul motorino, che si impennano da far paura e amano l'odore della benzina e dell'olio bruciato. Anche il presidente del CONI, Gianni Petrucci, ricordando il minuto di silenzio del mondo dello sport, rimarca la contagiosa simpatia di Simoncelli. Il minuto di silenzio è stato veramente un silenzio totale, dallo Stadio Olimpico a tutti gli stadi italiani. Ecco, questa è la dimostrazione di quanto fosse amato questo ragazzo, ed era amato anche perché questo suo modo di ripresentarsi era la gioia di vivere, il fatto che il figlio che ognuno vorrebbe avere, perché era sempre sereno, come ha detto giustamente il papà, sempre disponibile. Restano ancora domande senza risposta, l'elettronica esagerata, le gomme troppo larghe, il quattro tempi che non si spegne quando cadi. Tutto vero e tutto falso, perché poi il Sic di queste chiacchiere lui se ne fregava e dava il gas. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come detto, adesso parliamo di evasione. Oggi è stato presentato il nuovo redditometro, che è l'arma sulla quale l'amministrazione fiscale punta per far fronte all'evasione. Ne parleremo nel corso delle prossime edizioni. Ora ascoltiamo la nostra rubrica Paese sommerso, a due mesi dall'avvio dell'iniziativa. Il Paese sommerso. Il Paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Lo scontrino? La domanda, lanciata da una trasmissione TV, è diventata ormai un tormentone su internet. È una frase che chissà quante volte avreste voluto pronunciare di fronte al barista che vi serve cappuccino e brioche, ma si scorda di portarvi lo scontrino fiscale. Una dimenticanza che frutta parecchio. Dagli accertamenti portati avanti dall'Agenzia delle Entrate nell'ultimo anno e mezzo sono emerse maggiori imposte per quasi 143 milioni di euro, come spiega Vito D'Ambrosio. Il 25% dei soggetti che svolge attività di bar e caffè dichiara addirittura un reddito derivante dalla sua dalla propria attività di esercizio di bar e caffè negativo, quindi una perdita oppure pari a zero. Quindi insomma un comportamento che, certo, alcuni casi particolari nei quali può trovarsi un esercente attività, abbiamo considerato un comportamento antieconomico. Ecco. Uno dei trucchi più utilizzati per evadere è quello di consegnare al tavolo, invece dello scontrino, una ricevuta non fiscale con l'indicazione di ritirare il documento alla cassa. Chi prende il caffè la infila in tasca senza controllare e l'evasione è servita. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'editoriale del nostro direttore Fabio Tamburini. Radio 24 sta raccontando il paese sommerso da due mesi. Lo scandalo è clamoroso. L'Italia che paga le tasse è quella dei lavoratori dipendenti e dei pensionati tartassati dal fisco. Gli altri preferiscono soprassedere e per lungo tempo nessuno ha obiettato granché. L'evasione dell'IVA, per esempio, vale quasi 29 miliardi di euro l'anno. I gioiellieri dichiarano un reddito medio di 13.400 euro lordi l'anno. La maggior parte dei dentisti guadagna meno di 50.000 euro lordi l'anno. Per i titolari di ristoranti e pizzerie sarebbe necessario lanciare una colletta, perché risultano praticamente nulla tenenti, dichiarando in media 8.300 euro lordi all'anno. Così non è possibile andare avanti, ma non è soltanto evasione fiscale. La verità è che in Italia le aliquote di tassazione dei redditi sono troppo elevate. La Banca d'Italia ha documentato che le aliquote per i lavoratori dipendenti italiani sono risultate mediamente più alte che in Europa di quasi 10 punti e di oltre 6 punti per le imprese. È indispensabile una riforma coraggiosa. Giù le aliquote, ma tutti devono pagare e basta condoni. Nell'attesa, Radio 24 continuerà a tenere accesi i riflettori sul paese sommerso. Lo scandalo deve finire. La cronaca italiana ed estera nella seconda parte del nostro GR. Adesso gli aggiornamenti di viabilità. Le 13:18 minuti, i nostri titoli, ore decisive per il governo. Napolitano oggi ha parlato, gli annunci diventino decisioni, ha detto Bossi. Per la prima volta ha dichiarato che davvero sulle pensioni si rischia la crisi. L'altra notizia in primo piano è il ritorno a casa in Italia di Marco Simoncelli, commozione a Fiumicino. Dall'estero, in Turchia, neonato estratto vivo a 48 ore dal sisma. E poi il maltempo, ha allagato l'ospedale di La Spezia in Liguria. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Partiamo proprio da qui, dagli allagamenti che stanno interessando in particolare Liguria e Veneto. Anche nel nostro appuntamento con la viabilità avete sentito che il maltempo sta imperversando in particolare sul nord Italia, però dovrebbe scendere nelle prossime ore verso il centro e domani a Roma è previsto un nuovo nubifragio o comunque un violentissimo temporale. Le previsioni proprio per domani del colonnello Luciano Di Forti. Domani abbiamo un lieve miglioramento sulle regioni nord-occidentali, mentre ancora permangono precipitazioni abbondanti sul nord-est, su parte delle regioni centrali, in particolare sull'Emilia-Romagna, sulla Toscana, sul Lazio, mentre invece saranno a carattere un po' più, diciamo, direi moderato sul resto dell'Italia, ma condizioni di maltempo generalizzato su tutta la penisola. Dall'estero in Libia 100 morti per l'esplosione di un deposito di carburante a Sirte. Sono stati intanto tumulati in un luogo segreto del deserto libico i cadaveri di Gheddafi e del figlio Mutassim. Ieri il Consiglio Transitorio Libico aveva annunciato una commissione d'inchiesta per fare chiarezza sulla morte del Rais. La conta delle vittime del sisma che ha colpito la provincia di Van, ad est della Turchia, domenica scorsa continua ad aumentare. Oggi l'ultima stima è di 366 morti. Ci sono però anche novità positive. Un neonato di 2 settimane è stato estratto vivo dalle macerie 48 ore dopo le scosse. E noi torniamo in Italia con la cronaca. Perquisizioni e sequestri in Toscana e Lazio da parte della Guardia di Finanza nell'ambito di una inchiesta della Procura di Firenze relativa a finanziamenti pubblici erogati al Giornale della Toscana, coinvolto Denis Verdini. La nuova accusa nei confronti di Denis Verdini è quella di truffa. Con il coordinatore del PDL sono 19 le persone indagate dalla Procura di Firenze. L'inchiesta riguarda i finanziamenti pubblici erogati al Giornale della Toscana, della cui casa editrice Verdini è uno dei fondatori. Da questa mattina i nuclei speciali della Guardia di Finanza stanno eseguendo perquisizioni in Toscana e nel Lazio. Gli investigatori avrebbero sequestrato documenti e beni per 10 milioni di euro, parte dei finanziamenti pubblici che, secondo l'accusa, sarebbero stati percepiti in modo illecito. La nuova inchiesta fiorentina è una costola di quella sul credito cooperativo di Campi Bisenzio, che oltre allo stesso Verdini, presidente dell'istituto bancario per oltre 20 anni, vede fra gli indagati anche Marcello Dell'Utri. Ma non solo, perché le indagini sul Giornale della Toscana incrociano anche gli atti delle 2 inchieste della Procura di Roma sulla cosiddetta P3 e sugli appalti per i grandi eventi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci trasferiamo in Campania per un arresto eccellente. Un ordine di arresto per la primula rossa del clan dei Casalesi, Michele Zagaria, è stato emesso dal Tribunale di Napoli nell'ambito di un'indagine nella quale la Guardia di Finanza di Caserta ha arrestato un imprenditore, Luigi Cassandra, ritenuto prestanome dello stesso Zagaria, ricercato da oltre 15 anni ed ha sequestrato beni mobili e immobili per oltre 7 milioni di euro, tra cui un centro sportivo, il Night and Day. All'interno di questo complesso, protetto da un alto muro di cinta, si sarebbero svolti importanti summit di camorra con la partecipazione di esponenti di vertice della mafia casertana, durante i quali si pianificavano business illegali. Le indagini hanno riguardato anche altre 6 persone, di cui 3 donne, tutte residenti a Trento la Ducenta, nel casertano, che hanno partecipato alla costruzione di un vasto complesso immobiliare dichiarato agibile, seppure costruito su un terreno tuttora destinato a uso agricolo. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. 2 cedimenti di murature di epoca moderna stamattina all'interno del sito archeologico di Pompei. Si tratta di un muro nell'area fuori Porta Ercolano lungo la via dei Sepolcri e di un altro nella zona occidentale del sito. Intanto in Sicilia un progetto per ricostruire il Tempio di Zeus nel parco di Selinunte divide il mondo accademico. La provincia di Trapani smentisce e parla di operazione mediatica per attirare attenzione sul sito. Il sindaco di Castelvetrano Selinunte, Giovanni Pompeo, al microfono di Barbara D'Amico. Il parco archeologico, forse il più grande d'Europa, o se è il più grande d'Europa, merita un po' più di attenzione. L'iniziativa non è stata soltanto provocatoria, perché dietro c'è l'Università di Urbino, c'è il professore Mario Luni che ha fatto uno studio, diciamo, propedeutico. Si sta creando un comitato scientifico per vedere se può approvare o meno il progetto. Però mi sono accorto di una cosa, che basta parlarne per poter veramente scatenare, diciamo, l'attenzione su Selinunte. Mi metto nei panni anche del sindaco di Pompei. Se l'attenzione fosse sempre, diciamo, al massimo, sicuramente Pompei non crollerebbe. C'è una posizione che è quella ancora di resistenza da parte degli archeologi, che magari vedono quello che noi non vediamo. perché non siamo archeologi, perché siamo profani. Cioè, per me, per esempio, a Selinunte è stato ricostruito il Tempio E, che noi vediamo con danni irreversibili, con danni, diciamo, che spingono gli archeologi a dire non toccate quelle pietre, perché quelle pietre, diciamo, per esempio, è preferibile averle in rovina piuttosto che distruggerle con un progetto di ricostruzione che fa più danni che bene. In occasione del 50° anniversario di Colazione da Tiffany e in contemporanea con il Festival Internazionale del Film di Roma, per la prima volta la capitale celebra Audrey Hepburn attraverso una mostra omaggio da domani e sino al 4 dicembre al Museo della Rapacis di Roma. Un tributo che servirà a raccogliere fondi per il progetto di lotta alla malnutrizione infantile sostenuto dal Club Amici di Audrey per UNICEF, di cui la grande star fu ambasciatrice di buona volontà. La mostra Audrey a Roma è curata dal secondo figlio dell'attrice, Luca Dotti. Lo ha intervistato Adriana Fracchia. Abbiamo deciso un po' di smarcarci dall'icona di Colazione da Tiffany, mostrare altri aspetti di mamma, soprattutto oggi dove, diciamo, l'icona di Breakfast at Tiffany sta diventando un film meraviglioso, ma diciamo l'immagine estrapolata dalla mostra è anche un po' usurpata, no? Troppo vista, eccetera. E sentiamo sempre che c'è un po' il rischio di dimenticare la parte più umana di mamma. È una Audrey Hepburn più privata e soprattutto che visse più di 20 anni a Roma. Esatto, e diciamo tra il pubblico e il privato, veramente per strada con il suo pubblico a Roma, che è una città che l'ha vista in tutte le fasi della sua vita. Da giovanissima stella di Vacanze Romane, diciamo a star affermata nell'epoca di inizio degli anni 60, ma anche alla nascita dei suoi figli e attraverso le scelte che coraggiosamente ha fatto, perché questo è un punto, diciamo, fondamentale per arrivare fino al suo impegno UNICEF. Mamma aveva un forte senso delle priorità. Per tanti di noi è un'icona di grazia, di eleganza, di stile. Ecco, per lei come figlio il valore più grande che le ha lasciato mamma qual è? La tenacia, perché come la descriveva Peter Bogdanovich, come farfalla di ferro, è vero, mamma era molto esile di apparenza, però aveva una tenacia, una voglia di lavorare, di fare, di portare le cose a compimento, e questo è stato l'esempio più grande. Il calcio con l'anticipo della nona giornata di Serie A. Stasera alle 20:45 la Juventus riceve a Torino la Fiorentina per i bianconeri, prima delle due trasferte con Inter e Napoli. Questa è una partita delicata perché viene dopo il deludente pareggio in casa col Genoa. Il tecnico Conte recupera Vidal, ma farà meno di Buffon, destinato a saltare anche il match con l'Inter. E intanto Gattuso non tornerà in campo prima di 4 mesi. A dirlo ieri è stato lo stesso centrocampista del Milan a causa dei seri problemi all'occhio sinistro. Ringhio comunque non molla e vuole tornare presto in campo. Ce ne vuole per abbattermi, come dico sempre, c'è di peggio e l'importante è non mollare e guardare avanti. Non molla, non si arrende, perché Rino Gattuso è un guerriero, ci mancherebbe altro. E perché sul tavolo che ha davanti a sé ha steso una maglia rossonera dedicata a Marco Simoncelli, che del diavolo era tifoso sfegatato. E allora Ringhio schiuma rabbia contro la sfiga che gli ha portato via un amico e che costringe lui a una lunga odissea per guarire dalla paralisi del sesto nervo cranico che gli impedisce di utilizzare l'occhio sinistro. Il cammino da fare è lungo, dai 2 ai 6 mesi per vedere l'evoluzione della malattia, che potrebbe anche guarire spontaneamente o rendere necessario un intervento chirurgico. Ringhio è ottimista, vuole tornare a giocare presto, a regalare emozioni e grinta. Lo deve a se stesso, ai suoi tifosi, a Super Sic che lo guarda da lassù. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto: la maggioranza al bivio, con Bossi che ha detto non si può intervenire sulle pensioni, la gente ci ucciderebbe, ed ha aggiunto questa volta davvero si rischia la crisi. Saremo a vedere. Tutto per questa edizione, curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie regia a Pietro La Corte. Vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.